Episodio 8. 21. Ascolta il servizio radiofonico. Un cordiale saluto a tutti voi all'ascolto. Alla febbre del gioco d'azzardo e delle lotterie abbiamo recentemente dedicato una puntata, fra l'altro molto seguita. Ci sono però altri tipi di ossessione che magari non mandano in bancarotta economica le famiglie, ma che da un punto di vista psicologico sono ormai studiate come una materia a sé stante. Si tratta delle cosiddette dipendenze tecnologiche, quelle che vedono instaurarsi un rapporto morboso e ossessivo con alcuni strumenti straordinari, del resto, insomma, strumenti che però usiamo nella vita di tutti i giorni, come il computer o il telefonino. Ci sono persone che passano ore e ore su internet a giocare, a scaricare materiale di ogni tipo, a cercare nuove amicizie o addirittura l'amore della propria vita. C'è chi invece è preda di un rapporto compulsivo con il proprio telefonino o quando non parla sta lì magari a giocare o a inviare SMS a raffica. E poi ci sono i videogiochi, sempre più veloci, difficili, affascinanti, che catturano naturalmente l'attenzione di grandi e bambini, col rischio però di trasformarsi in un'ossessione. Oggi ci interrogheremo sulle conseguenze fisiche e psicologiche di queste nuove mode, ma anche sulle ragioni che conducono a questo uso esagerato di strumenti per molti irrinunciabili come il computer e il telefonino. 800-05-0001 il numero verde, radioanchio@rai.it l'indirizzo di posta elettronica, 335-699-2949 il cellulare per gli SMS. Uno studio che ha inquadrato bene dal punto di vista giovanile il fenomeno del quale parliamo stamani è quello svolto recentemente dall'Istituto di Ricerca Demoscopea e noi abbiamo al telefono Elisabetta Brambilla che è la curatrice di questa indagine. Buongiorno. Buongiorno. Allora, anche per una questione di costi e di rapidità, normalmente i sondaggi coinvolgono poche centinaia di persone. In questo caso, invece, dobbiamo dire, la Demoscopea ha intervistato quasi 13.400 ragazzi fra i 13 e i 18 anni, quindi, insomma, ne è uscito uno spaccato piuttosto significativo. Allora, cosa è emerso da questa ricerca per quanto riguarda le dipendenze di tipo tecnologico? Ma le risposte date dai ragazzi, appunto, intervistati hanno messo in luce una consapevolezza dei giovani rispetto alle nuove forme di dipendenza, prime fra tutte, appunto, la tecnologia. I giovani riconoscono nelle tecnologie la prima causa alla base di comportamenti di abuso non correlati a sostanze. Ben 88 ragazzi su 100 la pensano in questo modo e la classifica vede al primo posto i videogames, indicati dal 49% dei ragazzi intervistati, soprattutto dei più giovani, fra i 13 e i 15 anni, seguito dal computer, citato dal 44% dei ragazzi, dalla TV e dal cellulare, indicati nella stessa percentuale. Queste forme di dipendenza sono fra l'altro ritenute anche molto diffuse fra i giovani, e sono citate appunto dal 54% degli intervistati.